Ogni comprensione del singolo elemento è condizionato dalla comprensione del tutto. Del tutto. Del tutto. Del tutto. Percorrendo un sentiero fatto di musica e pensiero. Nel settembre del 1981 acquistai il 45 giri di quel racconto per potermi riascoltare quella storia ogni volta che avrei voluto. CD di Gigi D'Agostino. Ora la musica c'è. C'è. Per potermi riascoltare quella storia ogni volta che avrei voluto. Mi fai ascoltare Con te partirò. Sergio. Gigi, suona Con te partirò. perché anch'io voglio partire. Giampiero 24. Partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò. Citroen presenta la nuova C2 VTS Super Sprint, la versione soft tuning di C2 VTS con motore 1.6 16 valvole da 125 cavalli, marmitta sportiva a doppia uscita, fari posteriori trasparenti, cerchi in lega bianchi con chevron rosso, strisce adesive bianche con logo e battitacco personalizzati, interni in tessuto sportivo e pedaliera in alluminio, volante in pelle. Nuova Citroen C2 VTS Super Sprint. Se stai già sudando per l'emozione, non preoccuparti, c'è il climatizzatore incluso. C2 Fast for You. Scopri il resto della gamma C2 da 7.950 euro. Scade il 31 maggio. Sono Sisto da Cremona. Volevo dedicare Stand By Me ad Enrico e dirgli che è un amico speciale. Grazie. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. Volevo dire al mio amore Roby e a mia cognata Sara che gli voglio un mondo di bene. Gigi, sei in tutti noi. Carol. Il cammino di Gigi D'Agostino. Maestro Gigi, grazie per tutti i movimenti lenti che mi fai vivere. Vorrei dedicare Passo Folk al mio primo ostacolo della vita, la maturità. E nonostante tutti i momenti incoerenti, vorrei ringraziare quel qualcuno che mi ha dato la possibilità di vivere la mia vita. Dino da Calitri. Ciao Gigi, sono Mattia, ti voglio bene. Con te sono cresciuto, sei come un secondo padre. E la mia madre è la tua divina musica. Istinto meraviglioso. Sono i paesaggi meravigliosi che la musica riesce a disegnare intorno a noi. Ogni giorno, di pomeriggio, su M2O, dalle 2 alle 3. Pubblicità è la religione che salva le anime incerte, a patto che la ricerca sia sincera e costante. Signore e signori, Gigi D'Agostino. degli uomini non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza. Non è una scienza esatta, bensì Gigi, siamo Dino e Filippo da Monreale. Facci ascoltare ininterrottamente, perché noi ti ascoltiamo ininterrottamente. Alla contingenza. De che cazzo habla? Alla contingenza è un processo che vuol venire interrottamente. Continua così. Baci da Viviana di Montebello. Finalmente, in ogni dove, lento, violento e altre storie. Il doppio CD di Gigi D'Agostino. Ora la musica c'è. Ora la musica c'è. Potete rubarlo su internet, c'è altroni che non siete altro. Il cammino di Gigi D'Agostino. musica che unisce. Ciao Gigi, chi ti scrive? Un bambino di quasi 30 anni che ti segue da sempre. Ho comprato la tua ultima fatica e la trovo fantastica. Giuliano. Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole ma non c'è. Dormi ancora alla campagna, forse no. E sveglia, mi guarda, non so. Centro Italia. Questo sabato 19 maggio 2007 a Latina. Discoteca 24.000 baci. Dalle ore 22 suona Gigi D'Agostino. Facciamo rumore. Danziamo l'amore. Il cammino di Gigi D'Agostino, il tuo antidepresso. Rimani connessi. Che creiamo, noi ce lo suoniamo. La musica non mente, ci nasce dalla mente e finché non muore ci fa battere il cuore. Ciao Gigi, da Fabio, da Fabio. nuovo profumo di Soho. In collaborazione con Kiss Me Magazine sta cercando la nuova ragazza superstar. Registrati subito su sofragrance.com. Carica la tua foto e scrivi il motivo per cui dovresti vincere tu. Soho Superstar premierà la ragazza superstar con premi incredibili. Info sofragrance.com. Info sofragrance.com. Oggi il mio grande amore Marie-Claude compie 40 anni. Vorrei dire che la amo forte, fortissimo. Le dedico Arcobaleno. Buon compleanno. Elio dalla Svizzera. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Potresti mettere la fantastica Once Upon a Time? Vorrei dedicarla al mio amore Gianni, perché stare con lui è come vivere una favola senza fine. Sono Claudia. Dedico Angel al mio dolcissimo Martino. per i suoi 25 anni. Buon compleanno, stella del mio cuore. Sono Matteo da Milano. Volevo dirti che il tuo CD e il tuo cammino fanno paura. È come essere al settimo cielo. Mi potresti suonare Gioco armonico? Grazie. Sono Andrea. Volevo dire a Bianca che la amo tanto e volevo dedicarle Gioco armonico. Un saluto ai miei migliori amici Consta e Imma. Latif. Sognando, possiamo volare. Ciao Fatina, volevo ringraziarti. Mi stai facendo provare le emozioni più belle del mondo. Il tuo pinguino, Alessio da Genova. Sono Eugenio da Lamezia. Volevo dedicare Welfare a una persona che per me è importantissima e dirle che le voglio un mondo di bene. Grazie. Gigi, ti aspettiamo in tanti giù. Se volete scrivermi 333-64-67-662. Gigi D'Agostino. Una una grande famiglia danzante. Just one way, hanging on to yesterday, thinking what tomorrow's planned for me. Today, I know how to live my life, and I'm gonna do what I wish, gonna make the world move along with me. I wanna see the sun that shines above the mountains white with snow. Look at the trees, the way they grow, the rivers flowing by. I wanna look up to the sky and let my head run in the blue. There is no need to follow rules, but only time to play. I wanna feel alive. Spazio. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Dico, ho fatto un sogno a Paola, dicendole che da quando l'ho vista non faccio altro che pensare a lei. Gio. We'll be right back.

sano. Ora c'è lui, DJ Provenzano.